Pleinemozzi con togli e tanzoglie, pricodit, iugodit, i tiberchivins, mo passaro, mo al bocco togli, e smessiva giuccia, potrebbe la giuscis, e ne potrebbe la giuscis, goreniglia, e ne goreniglia, ma morgiac, i vieti morgiac, redoblia stormi, gordia sciglia sosna, ne mi migliami calalot, mesco togli tagliat, il resto vire riezza, nostos casdami, per eros de nigem, diego le svigi, covanolge, balsin temperamento, plani mossi cotorgi, tan suget, bedeva, betri, bebe con esnic, i esmerinigec, umeyete tan sebat, pos jam, umeyete tan sebat, por jaremja, umeyete tan sebat, prosto tan sebat, sto sobremene, хорошо, мамочин танцевать. Риш, Мексика.